Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Franco Schipani, lo senti il vento del cambiamento come soffia? Certo, Alessandra Fiore, un cambiamento che inizia quando e dove, si più specifica. Vabbè, Franco, siamo nel 1989. Alla fine degli anni 80 siamo arrivati. L'anno storico, Franco, l'anno rivoluzionario, l'anno della caduta del muro di Berlino. Gli Scorpions, in sottofondo, che li stai sentendo. Vento di cambiamento. Bravo, wind bravo. Of change. Che è un pezzo leggendario perché è proprio ispirato dai mutamenti politici che stavano cambiando il volto dell'Europa e del mondo, e diventa il brano simbolo della riunificazione tedesca, anche se poi il frontman degli Scorpions dice di averla scritta prima della caduta del muro di Berlino. Assolutamente, questo è storicamente provato. Comunque, Alessandra, resta il fatto che questo disco ha venduto 14 milioni di copie e ancora a tutt'oggi è il singolo più venduto nella storia della discografia tedesca. Perché il 9 novembre del 1989, Franco, finisce un'era. Il muro di Berlino, la frontiera tra est ed ovest nel cuore di una città, sinonimo della divisione in blocchi e della guerra fredda, è ormai privo di significato. La decisione storica è stata annunciata a Berlino Est da Günther Schabowski, uomo di punta del Partito Comunista Rinnovato. I cittadini dell'Est potranno attraversare senza visti particolari i confini tra le due Germanie. Il passaggio potrà avvenire in uno qualsiasi dei posti di frontiera, ha precisato Schabowski, e dunque anche attraverso il muro tra i due settori della città. Il governo della Germania Est annuncia l'apertura delle frontiere con l'Ovest, appunto è la fine del muro di Berlino, che è stato il simbolo della divisione delle due Germanie ed era stato costruito nel 1961. Il 9 novembre del 1989, il nostro anno, Franco, i tedeschi, a milioni e milioni di tedeschi, separati per decenni dalla cortina di ferro, iniziano una nuova vita. E i protagonisti di quella stagione indimenticabile sono Gorbaciov, Kohl, Bush e Genscher. Con il crollo del muro, tutti gli occhi improvvisamente si puntarono sui tedeschi. Molti pensavano che il muro sarebbe stato richiuso. C'era molta paura anche a Berlino Est e lungo il confine tra la Germania Est e la Repubblica Federale. È stato un momento storico di grande impatto emotivo. Sicuramente il più grande evento storico per l'Europa, il crollo del muro e la possibilità di una riunificazione della Germania nel cuore dell'Europa. Just a perfect day. Beh, sai, hanno fatto bene. È il popolo che deve decidere. Era come se qualcuno avesse premuto l'acceleratore e la storia si fosse messa improvvisamente a correre. Ecco, Franco, la storia fa così a volte, improvvisamente si mette a correre. E oggi, dopo oltre 25 anni, i muri tornano, non so, al confine con il Messico in America, ma anche in Europa, ai confini all'interno dell'Europa. Insomma, forse c'è da sperare che in certi casi la storia non corra troppo. Speriamo di sì, Alessandra, anche perché io sono contro i muri, non mi piacciono per niente. 25 anni sono passati anche dal mitico concerto dei Pink Floyd a Venezia. Hanno detto: andiamo a Venezia a fare un grande concerto, aiutiamo il turismo, aiutiamo la città, che bel posto per fare un concerto. Sbagliatissimo, perché arrivano in 200.000. 200.000? Ma tanti. Le cifre ufficiali sono 200.000, secondo me molti di più, perché non hanno contato quelli sopra i tetti, non so, quelli che sono buttati a mare, quelli che sono arrivati qualche notte. Insomma, è stato un vero e proprio disastro. Tanto è vero che i responsabili politici della città e anche gli organizzatori hanno detto: queste cose non si possono fare. Ma come? Abbiamo in qualche modo visto che i barbari non ce l'hanno fatta a fare sprofondare Venezia, lo stavano facendo i Pink Floyd. No, poveri, i fan dei Pink Floyd. I fan dei Pink Floyd, però insomma. 1989, Franco, l'anno del crollo del muro in Italia, è un anno di anche di fortissima crescita demografica. Pensa che in soli 12 mesi la popolazione mondiale aumenta di circa 87 milioni. E proprio da quest'anno l'ONU celebra l'11 luglio la giornata mondiale della popolazione per promuovere una presa di coscienza globale sull'importanza della pianificazione familiare sulla salute delle madri e dei bambini. Franco, ora che ti ho dato questa notizia imperdibile per siamo te, arrivati immancabile, dimmi che c'è in testa alle classifiche italiane nel 1989. Beh, c'è un po' di allegria. Chorando si foi, che un dia só me fez chorar. Chorando si foi, che un dia só me fez chorar. Chorando estará. Sono i Kaoma con Lambada, che è stato un po' il tormentone di tutto. Beh, il 1900, te lo ricordi anche beh, tu chi, in qualche modo. Chi non ha ballato la Lambada? Io no. Beh, io no, uno dei pochi. Chiappini credo. Dice che lui ha sempre ballato la Lombada. Ma lui è famosissimo. Lui è famosissimo. Ma è famosissimo. Quando pensano a Chiappini, mi dicono, ma chi Chiappini chi? Ah, quello della Lambada, dicono. No, della Lombada. Comunque molto imbarazzante come ballo. Senti. Comunque nel 1989 Lambada o non Lambada sarà sempre ricordato come l'anno della mamma. Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. L'anno della mamma, Edoardo Benato con Viva la mamma. Ma secondo te, Alessandra, dimmi tutto. In questo 1989, gli italiani, immediatamente dopo la mamma, che cosa amano? Franco, potrebbero essere moltissime cose, dalla macchina, le vacanze, la fidanzata, gli spaghetti, la pizza, non lo so. E ci pensiamo, non dire nulla, perché lo scopriremo subito dopo la viabilità. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia, io sono Alessandra Fiori, siamo nel 1989 e questa è la risposta di Franco Schipani a quello che ci chiedevamo prima della viabilità, ovvero cos'è che amano gli italiani di più. È questo che volevi dirci, Franco? Beh, il calcio è stato sempre una delle cose favorite degli italiani, va bene la mamma, le spaghetti, le vacanze, le macchine, eccetera, però il calcio è il calcio. Attenzione, perché in questo brano, lo senti sottofondo, lo l'ultimo sento, lo del sento. Coro a sinistra in alto, no. Col chi microfono è? Speciale metallizzato, questo è il presidente Berlusconi che sta cantando in sottofondo con davvero, tutti mi dici? I fan, e lui è ufficiale. E allora politica, Franco, politica, perché il 22 febbraio del 1989 Arnaldo Forlani diventa il nuovo segretario della DC, il 19 maggio ci sono le dimissioni del governo a guida di Ciriaco De Mita e poi il 18 giugno si vota per un referendum sull'Europa, bisogna decidere se conferire o meno mandato costituente al Parlamento europeo e i sì sono l'88%. Così nello stesso giorno alle elezioni per il Parlamento europeo il più votato è Craxi, per la DC è Andreotti, per il PC è Occhetto. Bastano poi, ricordiamo, 1989 l'abbiamo detto, The Wind of Change, il crollo del muro, ma bastano tre giorni e dopo, subito dopo il crollo del muro di Berlino, il 12 novembre a Bologna, Achille Occhetto annuncia che il PCI cambierà nome. E poi succede anche un'altra cosa, il 4 dicembre nasce ufficialmente il movimento Lega Nord, dalla fusione della Lega Lombarda e di altri gruppi autonomisti. Tante cose! Tante cose in questo 89. Tante cose. Sai, prima quando mi dicevi Occhetto, Craxi, Andreotti, sembrava il tridente di una squadra di calcio. Sì, sì, proprio il top del top. Il tridente? Il famoso tridente. Una nuova visione, interessante. E invece, da un punto di vista musicale, guarda, nel 1989 è l'anno di... C'è da spostare una macchina, anche questo è un bel tormentone. Beh, sì, c'è da spostare una macchina. È diventato. Ah, c'è da spostare una macchina. Francesco Salvi, comunque, non è l'unico ad avere nel 1989 diversi brani in classifica. No, Vasco, io non ci capisco. Con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male. Giovanotti con Vasco e Scappa con me. Lorenzo. Lui. Sempre lui. Il primo dicembre del 1989, tre settimane dopo il crollo del muro, scusami Franco, ma per me l'89 è il crollo del muro, non lo dico mai abbastanza, il crollo del muro. Crollato questo muro. Esatto. È crollato, Alessandro. Comunque il primo dicembre dell'89, Giovanni Paolo II riceve in Vaticano Mikhail Gorbaciov. Fabrizio Del Noce firma la cronaca di quell'incontro. Sono gli ultimi momenti prima dello storico incontro tra il capo della Chiesa Cattolica e il capo del Cremlino. Anche il fermo, impassibile Gorbaciov tradisce emozione. Lo dicono i suoi sguardi, il tremito nervoso delle mani. Ed ecco la prima stretta di mano, le prime frasi di circostanza. E poi, dopo le foto di rito, Giovanni Paolo II e Gorbaciov si avviano verso la biblioteca privata del pontefice. È la prima volta dai tempi della Rivoluzione francese che un segretario generale del Partito Comunista Sovietico entra in Vaticano. Qualche mese dopo, in un famoso articolo apparso sui giornali di tutto il mondo, Mikhail Gorbaciov scriverà: «Nulla di quanto è avvenuto nell'Europa dell'Est sarebbe potuto accadere senza questo Papa». Ecco Franco, tu invece mi dicevi degli italiani, dei cantanti italiani, ma mi chiedevo, quelli internazionali da noi, chi ha più hit in classifica? È una cantante americana di origini italiane, ti faccio sentire un brano adesso e uno dopo la pubblicità. Choice, I hear your Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mix 24, musica e storia. Bentornati nel 1989 con Musica e Storia, io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao. Ciao, che mi mette sempre di buon umore quando mette lei, Madonna. Allora, prima del break pubblicitario era Like a Prayer e questa che state ascoltando in sottofondo è Express Yourself, Madonna. Madonna, ma quanto ci piace. Tanto, la sua famiglia viene da Pacentro, in provincia dell'Aquila. Comunque, e ne ha fatta di strada. Ne ha fatta tantissima. E poi, in quest'anno di riunificazione, ci sono anche dei bei duetti in Italia. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi tuoi anni, ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno, e lascerò ai tuoi occhi tutta. Ti lascerò, Fausto Leali e Anna Oxe, con questa canzone si sono aggiudicati il 39esimo festival della canzone di Sanremo. Fermo, cara Alessandra. Fermo, Franco Schipani, aspetta. Prima di andare a Sanremo andiamo in Svezia, perché il Nobel per la pace è particolarmente significativo quest'anno, perché viene attribuito al Dalai Lama per la sua opposizione all'uso della violenza nella pur quarantennale lotta per la liberazione del Tibet. Tre anni prima, nel 1986, Giovanni Minoli lo aveva intervistato a Mixer mentre il Dalai Lama era in esilio in India. I 6 milioni di tibetani in Tibet sono ciò che conta. Sono esseri umani che hanno per migliaia di anni posseduto la loro cultura, le loro profonde tradizioni. E il benessere di questi tibetani, che in sostanza è ciò che mi sta a cuore. Eccoci Franco, adesso è tempo di festival, va bene? Oh, siamo arrivati finalmente al tuo adorato Festival di Sanremo. Comunque il management passa ad Adriano Aragozzini. Renato Pozzetto, che doveva condurre il festival tre giorni prima, ci ripensa, dice: assolutamente questo festival non lo faccio. Però si danno subito da fare il recupero dei ragazzi interessanti, di buona famiglia, che hanno nel DNA lo spettacolo, e sono Rosita Celentano, Paola Dominghin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, i quali fanno grandi ascolti a Sanremo. Ci sono il famoso, c'è anche il trio con Solenghi, Marchesini e Lopez, adorati, che però quell'anno si attirano gli strani del Vaticano. E poi chi è che veramente ha l'appalto delle risate, ma si becca anche un sacco di querele, è Toto Cotugno, come si chiama? Cotugno, com'è? Mi è piaciuto. Dicono il buco nell'ozono! Il buco nell'ozono! Avrà 6 chili di lacca, Cotugno, nella testa. La mamma una volta l'ha accarezzato e è rimasta attaccata una settimana. Ma allora, te lo giuro, usa ste bombolette di lacca, Cotugno. C'è il buco nell'ozono, infatti ogni volta che si pettina, Cotugno, si stacca un blocco di al Polo Nord di ghiaccio. E Giovanotto, mi ha gridato Giovanotto. Io adesso, se sono qua a parlare, ecco la mia sconfitta, il mio fallimento. Essere qui a parlare di uno come Giovanotti. Sono un fallito, mi sento. E aspettare che canta, mentre lì che canta, che mi fai? Gli vai dietro, bah, vai a lavorare! Vai in miniera! Ma cos'è? Cos'è quello lì? No, ora, onestamente, sarà mica un cantante, quello lì è una scorreggina, cos'è? Beh, cos'è? Questo è Beppe Grillo che dice: ma come, Giovanotti è un cantante, figurati, scomparirà, quello non sa fare. Infatti riempie gli stadi oggi come oggi, insomma, grande successo anche la scorsa estate, centinaia di migliaia. Napoli pazzesco, dappertutto. Comunque il Festival di Sanremo sarà anche ricordato, il 39esimo festival, per il premio della critica, che è andato, se l'ho giudicato, una bellissima canzone. Tu che sei diverso, almeno tu. paura perché c'è un trio che sta cantando dall'altra parte del vetro questo "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini. Sono Rachele Caracciolo, il nostro mixer Magic. Schiappini. È la nostra Antonella che non vede l'ora, così ogni volta sento un brano che le piace di cantare, però non le ascoltiamo bene, dovremmo cercare di registrarli un giorno, eh. E l'89, Franco, è anche l'anno di un drammatico episodio ed è quello di Piazza Tiananmen. Tra il 3 e il 4 giugno, infatti, una violenta repressione spegne le proteste di studenti e lavoratori cinesi ed è appunto la strage di Piazza Tiananmen a Pechino. L'esercito di liberazione popolare uccide centinaia di persone scese in piazza per chiedere più libertà e più democrazia. L'ultima notte su Piazza Tiananmen. L'esercito sfonda la fragile barriera di corpi, di transenne, di autobus posti attorno alla grande spianata. Migliaia di giovani tentano l'ultima resistenza, cercano di parlare, di convincere i loro coetanei in divisa a ripiegare, ma il colloquio è spezzato, comincia il massacro. Tiananmen è piena di morti, morti che non saranno mai contati, i corpi trasportati via con ogni mezzo, i feriti che piangono di dolore e di rabbia. È un massacro atroce, dice un giornalista cinese. Ci sono migliaia di morti. E ancora oggi il numero dei morti, delle vittime, è incerto e varia tra centinaia a migliaia di persone. E ancora i familiari delle vittime chiedono verità e giustizia. E negli stessi giorni, il 3 giugno, muore a Teheran l'Ayatollah Khomeini, capo spirituale e politico dell'Iran dal 79, che dall'esilio parigino aveva guidato l'opposizione religiosa al regime dello Shah e aveva fondato una repubblica islamica di stampo teocratico. Prima di morire, il 14 febbraio dell'89, Khomeini era stato protagonista di un caso che aveva fatto discutere il mondo intero. 3 milioni di dollari all'iraniano che ucciderà lo scrittore Salman Rushdie, 1 milione per gli stranieri che collaboreranno all'impresa. Il regime di Teheran ha posto una vera e propria taglia sull'autore dei versetti satanici, il libro contro il quale si è sollevato con violenza tutto il mondo islamico. Si teme per la incolumità dello scrittore. Ecco, l'abbiamo sentito, Khomeini annuncia la condanna a morte dello scrittore di origine indiana Salman Rushdie. La colpa di Rushdie, che in quel momento si trovava a Londra, era di aver insultato la religione islamica e Maometto. Khomeini appunto lancia una fatwa, una sentenza di morte. Il caso diventa ovviamente mondiale, il libro viene boicottato dall'intero mondo musulmano e Rushdie è costretto a vivere nascosto e sotto protezione del governo britannico. Anni dopo racconta la sua esperienza alla televisione italiana. Io stavo proprio seduto alla scrivania, stavo cercando di scrivere e mi chiamano al telefono, rispondo e il mondo è cambiato improvvisamente. Fai tutta una serie di cose sciocche davvero, te ne vai in giro correndo per casa, cerchi di chiudere le tende o magari vai e chiudi la serratura della porta d'ingresso come se di fatto facesse differenza. Però questa è stata la mia reazione immediata, cioè chiudere tutto, tirare su le barricate. Però è assolutamente chiaro che questa sarebbe stata una storia pericolosa. E per dire la verità ho pensato, mi rimangono pochi giorni da vivere, questo è stato il primo pensiero che ho avuto. E per fortuna invece Rushdie ha compiuto 69 anni. Oh, siamo felici per lui. Bene, senti, andiamo ad argomenti un po' più leggeri, eh? Abbiamo parlato del Festival di Sanremo, ci dobbiamo arrivare al Festival Bari, che è sempre una manifestazione molto ma molto importante, specialmente quest'anno, perché le case discografiche, avendo un grosso potere contrattuale nei confronti dell'organizzazione, perché portano da fuori molti molti costosi artisti stranieri, dicono vabbè, noi vediamo quelli stranieri, quelli importanti, quelli internazionali, però voi in cambio ci dovete promuovere i nostri artisti nuovi italiani. E di solito la cosa funziona. Funziona però, guarda, questi due artisti italiani non hanno certo bisogno di questo tipo di contrattualizzazione. Ti pretendo in nome dell'amore se c'è, stanotte vado fino in fondo, è troppo il mio bisogno di te, io non ti voglio, ti pretendo, è inutile. Questo amore lo pretendo, sei l'unico Ti pretendo, Raffa, diavolo in me, zucchero. Franco, dal Festival Bar però ti porto un attimo all'estero, dove tutto continua a dire che il mondo sta cambiando. Il primo febbraio le truppe sovietiche lasciano l'Afghanistan dopo l'invasione del 1979. Il bilancio di morte di questi 10 anni è impressionante. Sono 1.300.000 morti fra civili e oltre 5 milioni di profughi. Il 5 febbraio dell'89 l'Unione Sovietica, anche grazie alle pressioni degli Stati Uniti e del Pakistan, annuncia che tutte le sue truppe hanno lasciato l'Afghanistan. E dopo la fine della cortina di ferro arriva anche la morte, il 23 dicembre, del dittatore rumeno Ceausescu e di sua moglie Elena, che vengono catturati e uccisi dai ribelli dopo un colpo di Stato. Nicolae Ceausescu si affaccia per l'ultima volta al balcone del palazzo presidenziale di Bucarest. Stupore e timore per quello che è l'inizio della fine sono stampati sul volto del dittatore. Sono immagini storiche, le ultime ore di un dittatore. Poi appare la moglie Elena, colei che è stata accusata di essere la vera artefice dei drammi e delle vessazioni a cui è stato sottoposto il popolo romeno, appare distrutta. Poco fa la televisione romena ha trasmesso le prime immagini di Ceausescu morto. Pochi fotogrammi che chiudono 25 anni di tragedia per il popolo romeno, culminati in un epilogo di sangue. È la prima volta nella storia che la televisione trasmette qualche cosa del genere. Ecco, l'accusa per i due tiranni è di genocidio e di aver accumulato illegalmente ricchezze, lasciando il popolo rumeno nella fame. Il 25 dicembre l'esecuzione, l'abbiamo sentito, l'esecuzione della coppia di dittatori viene ripresa dalla televisione ed è la prima volta che l'immagine della morte di un dittatore diventa di dominio pubblico. Come di dominio pubblico diventa il grande successo in quel periodo di una serie televisiva che ha fatto veramente storia. Franco, Baywatch. Assolutamente, give the people what they want, dai alla gente quello che vogliono. Cosa vogliamo vedere? Bellocci in costumi da bagno, ragazze biondissime. Soprattutto una, Pamela, lei. Storica. E quindi questo è stato veramente un grosso successo televisivo, ma anche direi fra virgolette culturale, nel senso che è arrivato veramente ovunque. C'erano i paesi, c'erano per esempio, solo costumi rossi, costumi interi rosso. Guarda, anche ad Abu Dhabi vendevano le cassette illegali di Baywatch e gli emiri li guardavano, poco ma sicuro. E parlando di classe, ecco un gruppo inglese che ne ha da vendere. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference. If you don't know me by now, it's simply red. Meraviglia, Franco. Pezzo che non mi stancherei mai di ascoltare. È bellissimo. Un'altra novità però arriva in televisione, perché il 17 dicembre del 1989 negli Stati Uniti Fox, il canale Fox, trasmette la prima puntata di un cartone animato e il pubblico però non è esattamente di bambini. I Simpson, lo sai Franco? Sono loro, ma lo sai Franco che i Simpson sono diventati anche profeti? In che senso, scusa? Allora, c'è stata una puntata nel 2000 in cui avevano predetto che Donald Trump si sarebbe insediato alla Casa Bianca. Nella puntata, infatti, Lisa diventa presidente succedendo proprio a Trump. We've inherited quite a budget crunch from President Trump. Hai sentito? L'hai sentita? Come sapete, abbiamo ereditato la crisi di bilancio dal presidente Trump. Questo dice Lisa al suo staff. Il creatore della serie, Matt Groening, ha commentato: avevamo predetto che sarebbe stato presidente già nel 2000, ma era ovviamente la persona più assurda alla quale potevamo pensare in quel periodo. Ed è ancora così, ovvero è ancora assurdo, e va oltre la satira. Ma ti rendi conto, Franco, l'ennesima conferma di quanto ormai la fantasia sia stata ampiamente superata dalla realtà. E a proposito di fantasia, nel 1989 esce un film, non ti dico né il titolo, né ti faccio sentire una canzone, né un dialogo, ma soltanto questo. Ah! Ah! Sì, sì! Ah! Vabbè, Franco, è troppo facile. Sei Meg Ryan in quel capolavoro assoluto che Harry ti presento Sally, insieme a Come eravamo, praticamente uno dei miei film preferiti. Non vale, dai, è una scena insuperabile. Allora Franco, dimmi, fine anni 80 a questo punto, a New York, siamo partiti dagli anni 70 in cui ascoltavi le radio FM, poi è arrivata MTV, esatto, e poi è arrivato VH1, e poi i canali specializzati. E adesso che ascolti? Guarda, ascolto un po' di tutto, anche perché negli Stati Uniti in quel momento si ascoltano generi musicali veramente eterogenei. Seven inch in the computer. Michael Jackson, Bad Dance, Prince and Pop Up the Jam, Technotronic and Kelly. Chissà se qualcuno ha ancora il vinile di questo. È che non questo lo vedi? Materiale. Non lo che vedi dice? Oltre il vetro, Chiappini? Alza la mano, certo che hai il vinile. Io. Allora, Franco, dalla musica e dai vinili, io ti devo portare a una rivoluzione dell'89. Una rivoluzione, certo, diversa da quella del crollo del muro, ma che ha un suo peso, perché arriva una scatolina dopo il personal computer, dopo il Walkman, dopo arriva questa scatolina dal Giappone, questa scatolina che a un certo punto tutti continuano a guardare un po' come lo smartphone di oggi, ed è il Game Boy. Te lo ricordi il Game Boy? Ah, che meraviglia, le prime cose portate lo portavi anche in giro nelle scatoline se volevi. In pratica è l'iPad di oggi. O lo smartphone del 1989, partiamo da lì. Infatti proprio da quel momento, quando tu andavi in metropolitana a New York, vedevi sempre meno gente con libri e riviste e vedevi sempre più gente con questi oggettini. Sì, vengono da lontano. Franco, noi siamo arrivati alla fine di questo incredibile decennio, al 1989, e dopo il 1989 veramente il mondo non sarà più lo stesso. E lo dobbiamo salutare. Salutiamolo. Dobbiamo salutare anche tutti gli anni 80. Salutiamo. Li salutiamo come sempre con un brano, una canzone che è stata scelta da Antonella Migliaccio. È un brano perfetto per abbassare il sipario sul decennio, ma anche si pensa un po' già al dopo. Cosa ha scovato? Sono curiosissimo. Allora, io vi saluto, sono Franco Schipani. E io vi dico che la canzone scelta dalla Migliaccio per salutare gli anni 80 è Cosa resterà degli anni 80 di Raff, cantata però da Mina, When You Let Me Go. Ciao da Alessandra Fiori, Franco, ci rivediamo negli anni 90. Not too long ago, everything was brighter. How was I to know that before too long you'd be changing? Someone else was there. Now you must confess that it's so much less than you one used to care. You can tell me that I'm crazy, but you know it's true. I don't wanna wait until tomorrow, so tell me what to do. But if you're taking for granted that I came here to stay, yeah. Sorry, babe, but now you're wrong, I have to say. When you let me go, I'll be gone forever. If you let me know, things can't be the same. When you let me go. like a strange disease. Nobody knows what the cure is. You just stand on your knees. And as you can't help believing, soon we'll both be fine. But then I guess now there's someone else out there who holds the line. Where did you think we could make it? Why did you tell me so? Now it's time for you to say, I plan to let you go. Even if it's harder than ever, and that's the price you pay.